Parla l'uomo da 150 milioni di copie vendute, che tra l'altro dice, è vero, visto che ha fatto molti romanzi attaccati anche per esempio dall'Opus Dei, e dice, ma insomma non hanno capito che era solo un romanzo, io non cerco polemica, cerco la teatralità. È vero che ha cercato di vedere Papa Ratzinger, chiede Angelo Acquaro. Cercarlo mi sembra poco educato, lo metterei in imbarazzo. Potrebbe ricevermi pensando di non doverlo fare o dirmi di no temendo però che ci scriva sopra, cosa che non farei mai. Quindi che fa? Aspetta l'invito? Salterei su un aereo. Subito. Certo, non saremmo d'accordo su molte cose, ma questo non conta. E poi dice, ma come mai lei ha messo nel suo libro, uno dei che è incentrato sulla massoneria, uno dei massoni è nero, ha pensato mica al presidente degli Stati Uniti? Il presidente è mica l'unico afroamericano del paese, risponde Dan Brown. E poi io pensavo a Morgan Freeman, sarebbe un ottimo attore, sarebbe perfetto per il film. Poi, insomma, dicono che lei debba molto a uno scrittore italiano, Umberto Eco. Sono davvero imbarazzato, risponde Dan Brown, ma devo ammettere che di non avere mai letto Eco. Forse un po' del pendolo di Foucault. Ho visto il film Il nome della rosa. So che entrambi scriviamo di complotto, so anche che ha detto cose cattive su di me. Ognuno ha il suo gusto. È vero che per scrivere lei si sveglia alle 4 del mattino? Sì, è la parte migliore del giorno. Ti svegli in uno stato di sogno. Sogno e scrittura sono molto simili. Questo è Dan Brown, Mr. Best Seller, intervistato da Angelo Acquaro per Repubblica. Oggi esce il libro Il simbolo perduto. Non so voi, io me lo compro e me lo leggerò sicuramente. Allora, 7:53 minuti, ci fermiamo con la rassegna stampa di oggi. Vi ricordo di votare il sondaggio radio24.it nell'home page bianco o nero. Accettereste voi la raccomandazione di un politico? Molti ci scrivono già via SMS dicendo, ma in realtà se uno vota all'IP del computer è riconoscibile. Va bene, non vi denunceremo, votate tranquillamente, ne parleremo poi alle 8:30. Ci siamo alle 8:19 minuti con l'economia. Soldi e dintorni. Deborah Rosciani, eccoci qua. Partiamo subito. Sì, siamo un po' in ritardo stamattina. Siamo veloci. Allora. Sì. Estratto conto è già una brutta parola. Se poi ci metto anche insieme fiscale, vabbè, insomma, tu ti alzi e te ne vai. Ciao, arrivederci. No, a parte gli scherzi. Allora, questo è un servizio del quale noi avevamo parlato a Soldi e Dintorni lo scorso 7 luglio ed avevamo appunto proprio descritto come attraverso Equitalia, che è la società incaricata dell'esercizio dell'attività di riscossione nazionale dei tributi, fosse possibile attraverso naturalmente un sistema di ingresso ricostruire tutto quello che è il nostro rapporto con il fisco dal 2000 in avanti. È un servizio che è funzionato a quanto pare molto bene, perché dal 7 luglio, appunto da quando questo servizio è stato lanciato, gli accessi sono stati circa 250.000, fra le 10 città più cliccate, pensate, proprio Napoli a fare da capofila con oltre 42.000 consultazioni, seguita da Roma con 31.000 e Milano 26.000. Buongiorno a Francesco Ferri, è tornato con noi a Soldi e Dintorni, direttore responsabile appunto della Direzione Centrale Sistemi Information Technology di Equitalia. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, io direi di ricordare subito, dottor Ferri, a chi non lo conosce, a cosa serve questo estratto conto fiscale online e soprattutto vi aspettavate questo, come dire, successo di accessi? Beh, partiamo dalla seconda parte. Sì. Sicuramente il successo fa molto piacere e sicuramente non era atteso in queste dimensioni. Quindi siamo molto soddisfatti di quello che siamo riusciti a portare. E, per quello che invece riguarda, diciamo così, l'estratto conto, è chiaro che l'estratto conto è una funzione che consente ai cittadini di andare a verificare la propria posizione debitoria senza, diciamo, doversi rivolgere a uno sportello pubblico, a uno sportello di Equitalia, e quindi, diciamo, comodamente da casa è possibile andare a verificare tutto ciò che è, diciamo, ancora in debito con il fisco, diciamo genericamente, ma in realtà con lo Stato e con gli enti locali, perché nel nostro estratto conto è possibile verificare tutte le posizioni debitorie relative alle cartelle esattoriali e anche ad alcuni avvisi per quegli enti locali per cui gestiamo la riscossione dal VIS. Allora, potersi collegare a Equitalia appunto per poter poi elaborare il proprio estratto conto fiscale non è difficile, tra l'altro collegandosi proprio sul sito di Equitalia nella home page è possibile trovare, scaricare eventualmente il vademecum per consultare la posizione debitoria aggiornata. Allora magari però brevemente, dottor Ferri, spieghiamolo ai nostri ascoltatori, mettiamoci davanti ad una scrivania davanti al nostro computer per individuare le mie credenziali d'accesso, cosa devo fare in sostanza, cosa serve per poter accedere a questo servizio? Allora, per accedere al servizio è necessario innanzitutto chiarire che dobbiamo riconoscere in maniera forte l'utente che si collega, cioè non possiamo semplicemente rilasciare credenziali al primo accesso acquisendo, diciamo, da internet semplicemente un nome, un codice fiscale e un cognome. Quindi la procedura che noi abbiamo utilizzato in realtà l'abbiamo presa in prestito dall'Agenzia delle Entrate. Prevede sostanzialmente che si rilascino le credenzialità e si dia diciamo alcune informazioni relative al modello 730 dell'ultimo anno se è stato presentato, ovvero c'è una funzione diciamo di accesso veloce se non è stato mai presentato prima. Attraverso questa procedura l'Agenzia delle Entrate rilascia un PIN di accesso spezzato in due parti, una prima parte rilasciata direttamente in rete, la seconda parte che arriverà a casa attraverso diciamo una busta posta cedere. Quindi, tanto per sintetizzare, la interrompo immediatamente, se io volessi fare questa procedura stamattina non potrei controllare immediatamente quello che è il mio estratto conto fiscale perché devo aspettare che mi arrivi a casa questa seconda parte del PIN? Assolutamente sì, c'è poi un'alternativa che vediamo, di cui parleremo immagino più avanti, non so se lo vogliamo anticipare subito. Facciamolo subito perché tra quattro minuti dobbiamo salutarci. Sì. Allora, l'unica alternativa per poter accedere direttamente è essere possessori di una carta nazionale dei servizi. E infatti, questa è una novità recentissima peraltro. Questa è una novità recentissima che abbiamo lanciato proprio l'altro giorno. Attraverso questo strumento, che non è altro che una carta microchip, che serve proprio per il riconoscimento in rete dei cittadini, rilasciata solo da pubbliche amministrazioni, è possibile ottenere, sempre grazie al servizio dell'Agenzia delle Entrate, lo voglio ricordare perché con lo stesso strumento si accede anche al cassetto fiscale, dicevo, è possibile accedere direttamente all'estratto conto. Ci si collega, c'è una procedura ad hoc, si inserisce la smart card nel lettore, nell'apposito lettore e viene automaticamente riconosciuto il cittadino in rete, viene registrata quella carta nazionale dei servizi, viene comunque rilasciato un PIN anche per eventuali accessi senza la carta nazionale dei servizi. Mm-hmm. Diciamo che la carta nazionale dei servizi è uno strumento che consente di riconoscere in rete un cittadino. Tra l'altro già 7 milioni di cittadini la possiedono. Avete già notato, dottor Ferri, se dal lancio di questa ulteriore novità avvenuta appunto 2 giorni fa già qualcuno ha utilizzato questa modalità di accesso all'Agenzia delle Entrate per verificare allora, la posizione fiscale? In realtà noi abbiamo soltanto registrato in questo momento gli utenti che erano già avevano già fatto un primo accesso al, come dicevo prima, al cassetto fiscale, al servizio online dell'Agenzia delle Entrate. È troppo presto per fare questo tipo di analisi, quindi non abbiamo ancora registrato accessi, registrazioni dovute al nostro servizio. Stiamo però lanciando un servizio, anche un questionario in rete, per monitorare meglio il servizio e per renderlo sempre più efficiente, sempre più vicino alle esigenze dei cittadini. Quindi sicuramente se ci risentiremo più avanti, non lo so, racconteremo più. Noi cogliamo molto volentieri naturalmente questo suo invito. In ogni caso questa mattina l'obiettivo era di rispiegare di nuovo tutte le modalità con cui è possibile interfacciarsi con questo servizio proprio per verificare qual è la nostra situazione e la nostra posizione con il fisco. Peraltro, se non ricordo male, c'è anche un numero verde che si può chiamare, dottor Ferri, che è l'848-800-444. Questo a cosa ci serve? Il numero verde è ancora una volta un numero in condivisione con l'Agenzia delle Entrate, serve per avere qualsiasi informazione relativa all'accesso e per avere tutte le informazioni per ricevere le credenziali. Per ricevere le credenziali per l'estratto conto di Equitalia. Per l'estratto conto di Equitalia, quindi è un numero condiviso che serve per problematiche di accesso. All'interno invece dell'estratto conto trovate i numeri anche verdi per invece avere informazioni sulla propria posizione debitoria. Un'ultima domanda, dottor Ferri, allora quali sono le informazioni più importanti una volta che siamo entrati in estratto conto che troviamo relativamente alla nostra posizione fiscale? Noi parlavamo appunto di cartelle di pagamento, ma per esempio anche se abbiamo scelto in passato di fare una rateazione, no, di versamento delle imposte. Sì, allora oggi noi abbiamo una vista abbastanza sintetica, nel senso che c'è una lista di cartelle esattoriali o di avvisi a seconda della scelta pagati o da pagare e in questa lista poi c'è un dettaglio in cui si dice quanto resta da pagare, che tipo di pagamenti ancora vanno fatti, cioè che competenze c'è ancora da pagare, se sono appunto le sanzioni, se c'è il tributo principale, se le spese e quant'altro, e se ci sono meno rateazioni o procedure esecutive attive. Vediamo se riusciamo a portare qualche informazione in più avanti al contribuente, anche di maggior dettaglio. Benissimo. Dottor Ferri, grazie per essere stato con noi. Allora ci risentiamo presto. Grazie a voi. Buona giornata. Alessandro. Eccoci, Salva Danai. Eh sì, la moratoria sui debiti per le famiglie che parte da gennaio. Oggi ci dobbiamo andare assolutamente. Bianco o nero? Il sondaggio di Radio 24. Sono le 8:33 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan, diamo le notizie in primo piano, poi ci occuperemo del sondaggio. Berlusconi promette taglieremo l'IRAP, la tassa regionale sulle attività produttive, sì degli industriali, mentre il ministro dell'economia Tremonti non esclude le dimissioni. Oggi il premier e il ministro si vedranno poco prima del Consiglio dei Ministri. Quattro carabinieri sono stati arrestati a Roma, secondo l'accusa stavano tentando un'estorsione al presidente della regione Marrazzo. Al centro del ricatto un video che riprenderebbe il governatore in un incontro intimo. I carabinieri avrebbero preteso 80.000 euro da Marrazzo per non diffonderlo. Sono quattro mele marce, così li ha definiti i carabinieri il comandante provinciale generale Tomasone. Li abbiamo immediatamente isolati dall'istituzione alla quale non sono degni di appartenere. Domenica le primarie del PD, il segretario Franceschini ha piazzato un colpo a effetto. In caso di vittoria, dice il vice segretario, sarà Jean-Léonard Touadi, deputato. È bravo ed esperto, ma siccome non sono ipocrita, dico che l'ho scelto anche perché è nero, ha detto Franceschini. Infine per il calcio, in Europa League vince la Lazio, che batte 2-1 il Villarreal. Pareggia al 92esimo la Roma in trasferta col Fulham, 1-1, mentre il Genoa viene travolto a Lille 3-0 per i francesi. E allora, alle 8:35 minuti, parliamo appunto di raccomandazioni, parliamo del nostro sondaggio di oggi. Bianco o nero? Il sondaggio di Radio 24. Raccomandazioni. Vi fareste raccomandare voi da un politico? Questa è la domanda che vi facciamo su radio24.it. Rispondete, per il momento state rispondendo, il 50% dice di sì. E allora, raccomandazioni. Voi dovete scegliere il lettore del telegiornale tra quei 12 che sono rimasti in gara e lo dovete scegliere con la massima imparzialità, senza tener conto di pressioni esterne, di raccomandazioni, tanto è non concesso che siano arrivate anche a voi delle raccomandazioni. Oh, ma no! Oh, no, no, no! Scusi, eccellenza, per l'amor di Dio! Senz'altro, d'accordo, sarà giudicato con la massima benevolenza. È una raccomandazione autorevole. Professore, mi dica, chi è più raccomandato? Ah, nessuno. Partono tutti alla pari. Sono tutti raccomandatissimi. Ah, no! Meno uno, un certo Guglielmo Bertone. Vabbè, forse l'avete riconosciuto, I complessi di Dino Risi con Ugo Tognazzi. Questo era l'episodio con Alberto Sordi. Abbiamo preso questa alla redazione perché si parla di raccomandazioni tra i giornalisti, chi doveva leggere il Rai. E quindi bene così. Allora, Mastella ieri si è difeso, ha detto noi vogliamo sentire una delle cose che ha detto Mastella, interessante, da qui voglio partire. Rivendico il fatto che sono nato qua nel Mezzogiorno, dove il bisogno è più marcato, dove ogni parlamentare o la maggior parte di noi ha problemi rispetto all'impatto con gente che non ce la fa e che ha sofferenza. Quando andremo davanti al tribunale farò vedere le persone eventualmente che ho segnalato e vedrete se ho segnato ricchi o ho segnalato poveri. Ho segnato povera gente che aveva difficoltà, mi spiace per altra povera gente che aveva analoghe difficoltà e non si riesce, ma se uno ti viene evidentemente da te ha il dovere di farlo in coscienza, perché ritengo che una delle capacità dei politici è quella di far qualcosa all'interno di regole. Ho segnalato buona gente bisognosa. Voglio salutare il professor Giacomo Vaciago, buongiorno. Professore, buongiorno a tutti. Economista, insegna alla Cattolica di Milano, è stato anche politico, possiamo dirlo, è stato sindaco, insomma, a Piacenza, quindi vorrei anche farle un paio di domande in questa veste. Professore, mi ha molto colpito quando lei in un'intervista, corollario di questa storia incredibile di un americano che ha trovato 50 posti di lavoro in ogni stato negli Stati Uniti, ha detto in Italia non sarebbe possibile perché avrebbe avuto bisogno di 50 raccomandazioni questo soggetto. È così? Sappiamo, c'è un metodo che produce qualità ed è quello di accertare cosa uno sa fare e fare in modo che ciascuno faccia il lavoro per cui è più idoneo. E poi c'è un metodo che è quello di andare dal potente di turno e farti aiutare, come si dice, a essere messo in un posto dove evidentemente non avevi le qualifiche giuste. Il guaio per il paese non è che la gente è raccomandata, è che in questo modo sei sicuro che nessuno fa il mestiere per cui è più adatto e quindi il paese non funziona, non cresce e così via. Il sistema della raccomandazione vale quasi in ogni cosa, per fare mettere tuo figlio nella classe preferita, per essere preso nell'ospedale abbastanza in fretta e nell'ospedale che tu preferisci e così via. Non è mica solo per trovare il lavoro in questo paese, è per qualunque cosa. Il problema, si legge almeno oggi dagli stralci di verbale anche sul Corriere, quelli che sarebbero, usiamo sempre i condizionali, stati messi all'ARPAC perché raccomandati, 655 persone, dalle intercettazioni di uno, un direttore generale ne parla così: in coppa 10 cose, 9 non le sape fa, cioè 9 su 10 non le sa manco fare, di un altro non viene mai, di un terzo sta malato, di un quarto è nudemente, di un quinto dimmi tu come posso portare avanti una struttura con 100 milioni di euro con sta gente qua, cioè sarebbero raccomandati eppure incapaci. Beh, questa è sfortuna. In teoria potrebbero anche essere capaci di fare qualcosa, non necessariamente quella per la quale sono stati raccomandati, questo è il guaio. Cioè tutti devono essere raccomandati, anche quelli bravi, e tutti devono trovare un posto, anche quello che non è giusto. Beh, allora chiaramente questo mondo non funziona. Attenzione, sì. È un mondo immobile e lo vediamo continuamente anche nelle altre parti, perché io ho un test, la probabilità di incontrare un negro. Allora, salgo su un taxi, quanta probabilità ho che l'autista sia di colore? In Italia, zero. Idem in banca, idem dal notaio, idem, cioè lì tu ti rendi conto, abbiamo 5 milioni di immigrati, ti rendi conto che il paese è immobile, i posti sono fissi, come dice il ministro, lui lo auspica, ma più di così è impossibile, sono immobili in tutto il paese, cioè non c'è proprio merito e mobilità. Allora, la sta ascoltando e voglio salutare l'onorevole Luigi De Magistris, eurodeputato, benvenuto, ben ritrovato De Magistris. Buongiorno. Dell'Italia dei Valori, ex magistrato. Senta, io non la voglio tirare in ballo su Mastella, sarebbe troppo, però l'ha sentito anche lei Mastella, insomma. Dimentichi per un attimo magari la vicenda passata, l'inchiesta, le sue dimissioni. Che dice, insomma, di questa lettura? Aiuto i bisognosi? Ma io vorrei fare una riflessione brevissima, incominciamo a chiarire un equivoco. Mastella non è accusato di raccomandazioni, Mastella e il suo ambito familiare, e questo anche la dice tutto su un certo modo di fare politica, è accusato di reati gravi. La raccomandazione non è un reato, è un malcostume, però attenzione che dietro alla raccomandazione spesso vi è uno scambio, e lo scambio spesso è una corruzione. Voglio chiarire meglio, questo modo di fare politica, che descrive tra l'altro anche Mastella, è stato un modo di fare politica, cioè fondando il lavoro sulla raccomandazione, voluto da una classe politica che ha tenuto una parte del paese, in particolare l'Italia meridionale, in una situazione di soggezione, cioè controllando ad esempio la spesa pubblica nell'Italia meridionale, e si controlla anche il mercato del lavoro. Quello che è accaduto in Campania era esattamente quello che scoprì io quando facevo Why Not, cioè la spartizione dei finanziamenti pubblici e del lavoro delle persone che dovevano lavorare agli appalti, ai subappalti, al lavoro. Questo è un sistema voluto, è voluto perché quel tipo di politica acquisisce consenso e quindi anche voto proprio attraverso quel meccanismo. E che cosa che soffre? Il merito, perché le persone, lei ha citato quell'intercettazione, si vede chiaramente che i giovani soprattutto, ma non solo i giovani, non vanno più avanti per il merito, ma perché appartengono a qualcuno, che non è necessariamente il politico, sia ben chiaro, può essere anche un altro potere, può essere anche appartenere a famiglie di borghesia forti, imprenditori, professori, comunque devi appartenere. Questo è un po' quello che mi pare che viene fuori da questa vicenda. Allora, vediamo se è d'accordo. Io lo voglio salutare, Luigi Nocera, buongiorno, l'abbiamo raggiunto, eccoci qua. Allora, chi è Luigi Nocera? La faccio così subito arrabbiare. Ieri è il primo della classifica, è il re della spintarella, secondo i file. So che questo la fa arrabbiare. 100 persone segnalate, lei dice non raccomandate, segnalate. Quante ne ha segnalate lei, Nocera? Ma io non contesto né la cifra né quello che dicono. Mm. Lei deve sapere che io facevo l'assessore, l'assessore all'ambiente, chiaramente il riferimento poi dell'agenzia. Molte volte venivano da me, ci vado a dire, di tutti i partiti, non solo del mio partito. Io, voglio dire, segnalavo, ma non è che facevo pressione per... Che vuol dire segnalare? Tecnicamente che facevo? Segnalare significa la segreteria, arriva il curriculum, lo smista, le va, come succede in tutti i posti d'Italia. Cioè io le mando un curriculum perché penso di poter lavorare lì e... Io lo posso cestinare oppure lo mando a chi... ha la competenza per rispetto al curriculum che lei mi manda. E basta, e poi non faceva telefonate a dire... No, no, assolutamente no. Mm. Com'è quella frase di Rino Formica che lei ha ricordato sulla politica? La politica è merda e fango. Merda e fango, o sangue e merda. O sangue e merda. Comunque... Insomma, uno dei due termini c'è, ecco, insomma. C'è dubbio sul secondo, ma uno c'è. No, ma anche il fango ci sta, disse Rino Formica. Anche il fango. Non sono d'accordo su quello che ha detto De Magistris. Su cosa? Che dietro alla raccomandazione o alla segnalazione c'è tutto, c'è sempre la dietrologia del pensiero. Senta, dire, per quanto riguarda soprattutto ci può essere la corruzione, ci può essere questo. Io credo che la realtà del Mezzogiorno d'Italia è una realtà che tutti quanti noi conosciamo, dove c'è prima di tutto una grande disoccupazione soprattutto intellettuale e dove ci sono poche opportunità di lavoro. E quindi? E la gente tenta in tutti i modi di poter ottenere, voglio dire, quello che ricerca poi dopo aver fatto anni di studio e che è il lavoro. Senta, le chiedo questo, poi devo andare un attimo al traffico, devo salutare anche il professor Vaciago dal quale voglio ritornare per un attimo. Lei ha detto, io contesto le cifre, comunque in un'intervista credo ha detto 100 non sono. Poi alla fine si vedrà, cioè, forse, dire, ma insomma, ci sono. Lei ne ha segnalati alcuni, non so, ci vuol dire quanti per certo sa di aver smistato curriculum? No, assolutamente non mi ricordo, perché sono 2 anni che non faccio l'assessore, grazie a quello che in Italia in questo momento è il sistema penale. Vabbè, su questo poi... Risponderà De Magistris, non ricorda neanche quanti ne ha fatti assumere con la sua segnalazione tranquilla? Non lo so, guardi, l'agenzia, l'ARPA Campania, era un'agenzia che era stata istituita da 3-4 anni, non aveva addirittura la completezza della pianta organica. Io come assessore all'epoca cercai di sistemare anche la questione della pianta organica. Perciò poi si fecero i concorsi, no? Vabbè, professor Vaciago, che così poi la saluto, vado al traffico e torno da De Magistris e Nocera. Professor Vaciago, è come dice Formica, la politica, dobbiamo prenderla così? Ma non è solo la politica, è il paese. Sì, certo. La politica è la parte più vistosa e dà consenso, dà voti e quindi è obbligatorio. Purtroppo però il problema è più generale. Mi spiace generalizzare ogni cosa, però attenzione, insomma, mentre il mio laureato che va in giro per il mondo vuole un'accurata lettera in cui io descrivo i suoi pregi e i suoi difetti, e questa è la presentazione internazionale, in Italia vorrebbe, ma io mi rifiuto, che io telefonassi all'amico. Anche nel settore privato non sono solo gli assessori i corrotti, purtroppo. E quindi questo segnala un problema generale. Il merito è che ciascuno faccia il mestiere per cui è più adatto, non è la regola non di questo c'è. Paese. Professore... Io no, su questo la ringrazio, devo dare il traffico, poi voglio ritornare dall'onorevole De Magistris, Luigi Nocera. La domanda è quella, vi fareste raccomandare da un politico? Su Radio24.it votate per ora il 51%, anzi 52% dice di sì. Stanno uscendo fuori finalmente gli scheletri. Bianco o nero? Il sondaggio di Radio 24. Chiedereste voi la raccomandazione a un politico? Voglio tornare dall'onorevole Luigi De Magistris. Repliche a Nocera che dice intanto non sono più assessore per colpa del sistema penale e che poi dice la politica è questa. Vaciago ci ha detto il paese addirittura è questo. Allora, io faccio una premessa che purtroppo per problemi tecnici né il professore né Nocera sono riuscito ad ascoltare, però penso dalla sua domanda di aver compreso il senso. Ma la politica non è affatto questo, questo è una vecchia modo di fare politica che ha tenuto in piedi, come ho detto prima, questo sistema castale che vuole gestire la spesa pubblica, gestire il lavoro per tenere una situazione di sottomissione al paese. La politica è un'altra cosa, è lo strumento per il raggiungimento del bene pubblico, anche perché non si dice di una cosa. E poi dobbiamo spiegare ai cittadini, in questo caso ai cittadini campani, perché c'è un dramma ambientale in Campania, perché la situazione, c'è un'emergenza ambientale che produce morti quotidiane, perché se così vengono selezionate le persone che devono preservare all'interesse pubblico di tutti i cittadini, si comprende lo sfascio del servizio pubblico. Questo non è che si fa così. E poi vorrei dire anche un'altra cosa, qua porto la mia esperienza di magistrato, la raccomandazione non è un reato, e questo lo sottolineo, ma molto spesso è un anello di una catena del sistema corruttivo, cioè dietro il mercato del lavoro ci può stare benissimo una corruzione. La corruzione non gira solo con le mazzette alla Mariochiesa, ma anche dando posti di lavoro, quindi è un arrampicarsi sugli specchi. Ma lei che fa il lei che adesso fa il politico riceverà curricula, no? La chiameranno a dire: onorevole, guardi, insomma, mio figlio, mia figlia. Guardi, io forse ho un aspetto che forse mi porto dietro il fatto di aver fatto per 15 anni il magistrato e sanno un po' come l'ho fatto. Hanno paura a venire da lei. Ma segnalare un curriculum, voglio dire, questo non è il fatto di una raccomandazione, però è la raccomandazione quando uno pretende di avere un posto o qualcosa scavalcando altri. Questo è completamente inaccettabile. Io credo che sia la meritocrazia quello che deve fare il discrimine, cioè le persone devono andare avanti perché meritano e devono avere condizioni di uguaglianza. Del resto l'uguaglianza dell'articolo 3 della Costituzione è anche questo. Allora voglio farle sentire un altro punto di Mastella, perché qui tocca tira in ballo l'Italia dei Valori, insomma, e quindi anche il suo partito. Sentiamo che ha detto Mastella. Ho fatto il calcolo, ho fatto meno segnalazioni di quello che hanno fatto gli amici dell'Italia dei Valori. Io ne ho fatti 26 da quello che apparirebbe, perché non so, no? Italia dei Valori con i suoi rappresentanti senatoriali oggi e consiglieri regionali ha fatti 27. Siamo uno strano partito di potere, un sistema di potere strano che è molto generoso. Mastella dice: io ne ho fatte 26, forse, adesso vediamo. L'Italia dei Valori 27. Vabbè, Mastella è un singolo Italia dei Valori, come... Però, dice, come dire, De Magistris, non facciamo troppo le verginelle, ecco. Guardi, io sono, innanzitutto facciamo una premessa. Io, quando vengono istanze di trasparenza, io sono il primo a portarle avanti, e lo sanno tutti, anche la battaglia che sto facendo in generale nella politica e quindi anche all'interno dell'Italia dei Valori. Quindi quando si parla di trasparenza non è che c'è partito che tiene, questo vale per tutti. Mastella è abile, cerca di spostare il tiro e fa capire che lui è accusato di raccomandazioni. Mastella e la sua famiglia sono accusati da tempo di reati gravissimi. Poi se in Italia dei Valori ci sono delle opacità e delle cadute di trasparenza, io non sono felice, sono felicissimo che queste vengano scoperte, perché Italia dei Valori ha un senso solo se si distingue nettamente da questo modo becero e indegno di fare politica. Alessandro dalla provincia di Cremona, che c'è tempo solo per un ascoltatore, che dice lei? Ma io dico che, insomma, Mastella e l'atteggiamento di Mastella è veramente insopportabile. Soprattutto per chi come me fa l'amministratore, sindaco prima, oggi amministratore di società, in piccole società pubbliche, in piccoli comuni dove avrà ricevuto curricula. La vita pubblica vuol dire fare volontariato, insomma. Ha fatto il sindaco, mi pare di aver capito. Ho fatto il sindaco per 10 anni, l'avranno un piccolo paese di 3.000 abitanti, nel pieno della Padania, e sono un sindaco di centro-sinistra. Beh, insomma, piccolo, quindi ancora peggio, tutti che si conoscono, l'avranno chiamata tutti, esatto, a dire: metta a posto mio figlio, no? No, metta a posto mio figlio no, ma le situazioni di disagio e di emergenza sociale chiaramente si rivolgono al primo cittadino, andando a suonare anche il campanello di casa, proprio perché ci si conosce tutti, insomma. E lei che dice? La trova così scandalosa come cosa? Ma non sopporto l'atteggiamento di Mastella, perché è un atteggiamento che va prima con il centro-sinistra, poi con il centro-destra, e se domani ci fosse... Vabbè, questa è un'altra, questa è un'altra valutazione, ma dico, trova scandalosa che le venissero a suonare al campanello? No, no, erano tutte situazioni di bisogno, per cui voglio dire, si valutano, consideri che a me è capitato anche di cacciare fuori dall'ufficio del sindaco gente, i meriti professionisti che venivano a chiedere è stato chiarissimo. No, devo chiudere, ce la facciamo Silvia da Roma in 10 secondi? Silvia, 10 secondi, mi prometta, lei che ne pensa? Sì, buongiorno, io riguardo al sondaggio del posto fisso. No, che posto fisso, raccomandati che... o no, dica. Raccomandati o meno, cioè lo sappiamo tutti, senza una raccomandazione in alcuni posti fissi non si entra. Ah. Soprattutto in posti fissi importanti, quali polizia, sanità. Quindi viva la, viva lei, una cosa palese a tutti, per esperienza personale. Per e quindi lei dice viva la raccomandazione, viva chi ce l'ha? Per forza! Per forza, va bene. Mi chiudo con questo per forza. Grazie a lei, così come all'onorevole Luigi De Magistris, a Luigi Nocera, che è stato assessore e che è uno dei citati come, insomma, colui che avrebbe segnalato persone in campagna, così il professor Vaciago anche prima è stato con noi. Grazie a tutti. Votate su radio24.it nell'home page. Chiedereste la raccomandazione a un politico? Per il momento vincono di poco, i sì, attorno al 52-53%. Ci fermiamo qui con Laura Marchesi in redazione, Paolo Corleoni oggi in regia. Saluti a tutti, a lunedì.